Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Elena Guerrini, autrice di Bella Tutta, un romanzo pubblicato da Garzanti. È una sorta di diario della vita della stessa Elena Guerrini, una donna in sovrappeso. Allora, Elena, il sottotitolo tra l'altro di questo libro è I miei giorni, i miei grassi giorni felici. Com'è nata l'idea di questo romanzo? Sì, è nata a partire da una riflessione su di me, sulla mia pancia, che ho iniziato ad apprezzare proprio quando ero incinta. Quando ho smesso di essere grassa, ho iniziato ad essere incinta, quando aspettavo mio figlio. E ho detto, ma perché combattere così tanto tutte le nostre energie, buttare tutte le nostre energie contro una parte di noi? E ho provato ad accettarla. Da questo ne è nato lo spettacolo Bella Tutta, i miei grassi giorni felici, che porto in tutti i teatri d'Italia, e il romanzo Bella Tutta, i miei grassi giorni felici, che è un allargamento dello spettacolo teatrale ed è una storia vera, la mia. È una storia vera, perché però che racconti con grande ironia, insomma ci si diverte a leggere questo libro. Sì, c'è tutto il divertimento della ragazza cicciottella imbranata che si trova a vivere delle realtà quali il primo bacio, la prima storia d'amore nel paesotto di provincia, e quella è una storia vera. Io sono nata in Maremme, fino a 18 anni ho vissuto ad Albinia, in un paesino della provincia di Grosseto, dove ci sono amici dai buffi soprannomi, dove c'è il catechismo, le gite a vedere il Papa, e credo che tantissimo di quello che ho messo poi nel romanzo, anche se poi ho vissuto fuori, sia nato proprio dai miei primi anni, in cui dagli anni dell'adolescenza. A proposito del Papa, c'è una scena molto carina nel romanzo dove si racconta appunto che tu sei andata in udienza dal Papa insieme ad altri ragazzini, appunto da ragazza, e ti si scuce il vestito. È un episodio vero o inventato? Almeno questo lo sveliamo, dai. Almeno questo lo sveliamo. Noi siamo andati con la classe del catechismo assolutamente dal Papa, perché da Albini andavamo o al Papa e al Luna Park, per cui tutti i ragazzini che volevano andare il pomeriggio al Luna Park si iscrivevano alla gita e andavano a vedere il Papa la mattina con la classe del catechismo. Questa è una storia vera, perché mi si era scucito questo vestito nel momento in cui ero all'udienza. Non ero proprio lì davanti al Papa come racconto nel libro, però ero appunto nel coro della chiesa e mi si era scucito questo vestito, quindi è stata questa situazione rocambolesca, insomma, di... Senti, a che età tu ti sei resa conto di essere in sovrappeso? Ma guarda, intorno ai 12 anni, già in quinta elementare ero già alta, con un grande seno, quindi mi sentivo diversa dalle altre ragazzine. Intorno ai 12 anni, poi in realtà, pensandoci adesso, non ero in sovrappeso, non ero 55 kg ma ne ero 66, per un'altezza di 1,70 m è giusto, però ti senti in sovrappeso. Ti senti assolutamente in sovrappeso rispetto a quello che i media mandano di quello che deve essere una ragazzina normale. A proposito della parola sovrappeso, è la parola politically correct, diciamo, ti dà fastidio se dicono che sei cicciona, per esempio? Ma a me piace molto più la parola cicciona o la parola grassa che non sovrappeso, perché già l'idea di dire sovrappeso o con qualche chilo in più implica che esiste una normalità. E qual è la normalità? Chi è che dice che qual quella è il peso, è la normalità? Normale? Qual è il peso normale? Tu racconti anche che hai provato, non ricordo il numero, credo 68 diete, è giusto? 68 diete diverse, e le elenco tutte nel libro, le elenco tutte nel monologo dello spettacolo. 68 diete diverse e non è servito a nulla, appunto, perché ogni volta riprendevo i chili persi, anche di più. A questo proposito, hai fatto anche un conteggio molto singolare nel tuo libro su quanti chili hai preso nella tua vita e quanti ne hai persi. Sì, in 15 anni appunto ho perso 310 chili e ne ho ripresi 325, grammo più, grammo meno. Quindi il saldo è positivo, insomma hai guadagnato qualche chilo. Ho guadagnato qualche chilo, anche se in realtà i chili è l'unica cosa che se li perdi devi essere contento. Le altre cose se le perdi, dici oddio ho perso questo, quell'altro, i chili sembra l'unica cosa che fa piacere perdere. E come la mettiamo invece sul versante salute? Molto spesso si dice grasso è bello, ma è anche salutare. Tu hai avuto insomma qualche difficoltà? Ma guarda, io non vorrei rispondere appunto a un paradosso con un altro paradosso. Non è un libro del grasso è bello, bella tutta, i miei grassi giorni felici. I grassi giorni felici di Bella Tutta sono felici non perché siano grassi, ma perché invito le lettrici ad ascoltare se stesse, quindi sono giorni felici per questo. Il grasso è bello, non lo condivido neanche. Credo che essere sani sia una prerogativa di qualsiasi peso. Non è un incitamento all'obesità questo libro e non lo è neanche lo spettacolo. A me piace fare passeggiate, andare in bicicletta, andare alle terme, mangiare cose sane, ma non metterò mai il mio corpo in condizione mai più di violentarlo con una dieta, con una dieta restrittiva. E io credo che se uno si cura e comunque, non so, le mie analisi sono tutte perfette, ne parlavamo anche anche appunto spesso nella stesura del romanzo, no? Di questo dubbio che potrebbe arrivare. Non è un incoraggiamento ad abbuffarsi, anzi. Ecco, tu scrivi tra l'altro che nella tua vita non è cambiato il peso, è cambiato lo sguardo. In che modo? Sì, perché comunque io credo che noi donne, appena abbiamo un piccolo problema, e a me è capitato per 15 anni, diamo la colpa al grasso. Se non so, non piaccio a quel ragazzo o non vado bene a quel colloquio di lavoro, perché magari c'avevo i fianchi larghi, ero gonfia, questa cosa. E invece non è così. Ho scoperto che non è così ed è stato veramente liberatorio. È come se il nostro grasso fosse per noi un capro espiatorio. Tutto andava lì. Devo dimagrire, quando dimagrisco risolverò tutti i problemi. Non è così. Inizia a risolvere i problemi che c'hai ora, che non sono quelli, sono altri. Magari sono problemi dell'anima, non del corpo, problemi del cuore, non del corpo. E quindi proprio ho iniziato a spostare l'attenzione e spostare lo sguardo, per cui se ti vedi bella, perché la bellezza è energia e viene profondamente da dentro di te, sei bella, e sei bella se non ti rispecchi in nessun canone unico di bellezza omologata. Abbiamo parlato di diete, di grasso, perché appunto il libro ha anche come sottotitolo I miei grassi giorni felici, però questo non è un libro appunto di diete o di viver sano, di viver meglio, grasso è bello, come si diceva prima. È un libro, tu mi raccontavi, di formazione soprattutto. Sì, quello che appunto vorrei arrivasse alle lettrici di questo libro è proprio l'idea della formazione dell'adolescente che pian piano diventa donna attraverso varie esperienze. Attraverso varie esperienze che vive con il suo corpo che decide di non omologarsi. A proposito invece dello spettacolo teatrale, come reagisce il pubblico al tuo monologo? Ma guarda, è uno spettacolo in cui io chiedo addirittura al pubblico di dire la loro taglia, mm-hmm, alle donne. E all'inizio è terribile, tutte le donne che sono oltre la 42 si vergognano. In delle città abbiamo addirittura fatto l'ingresso ridotto a tutte le donne che dichiarano felicemente la propria taglia oltre la taglia 46, perché c'è proprio questa vergogna, questo tabù, veramente la taglia 42 è il nostro burka, questa paura di togliersi il burka, questa paura di andare al di là, per cui c'è questa difficoltà. Poi alla fine è liberatorio quando magari una persona vede che l'altra dice: ah, io ho la taglia 50 e non si è mai lamentato nessuno perché una l'ha detto. Allora tutte le altre dietro cominciano a dire: anch'io, perché è un nostro tabù. Grazie a Elena Guerrini, autrice di Bella Tutta, pubblicato da Garzanti. Io vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.